Allora, va detto che noi praticamente viviamo costantemente nelle merde volanti per 200.000 ragioni, vabbè, 200.000 ragioni che poi alla fine sono sempre le stesse, quindi ce ne possiamo anche andare a fare un volo sottano con il tralpe, wherever we are, wherever we go, perché tanto importa che sti. Allora, la gente si comporta come se la roba avesse senso, come se il concetto stesso di senso avesse senso, ma in realtà è un paradigma che è una boutade, perché cosa vuol dire senso? Senso è fare una roba che naturalmente ad un certo punto si rivela fine a se stessa, perché arriva uno, ti rivela il senso di roba X, ok, prendiamo atto, cosa dobbiamo fare di altro? Non è che sia qualcosa che se abbia tutta questa carica esponenziale, perché tanto qui noi viviamo dipendentemente da un paradigma in cui non possiamo fare una mazza, perché siamo eternamente circoscritti, la vita stessa è un agglomerato di disvalore, quindi ovunque vai, rimbalzi e voli e amen. Viviamo in un corpo talmente ristretto, una mente talmente ristretta che è esclusivamente grazie agli strumenti scientifici che siamo riusciti a travalicare un po' di più. In realtà di per noi non possiamo fare un accidente ammazzato. E per quanto riguarda il resto rimane sempre tutta una miscela di nulla, perché se gente dice, oh, ma nichilismo, sconfiggiamo qui e là, ma in realtà non potete fare nulla perché da mattina a sera siete sempre lì il solito bivacco di 10 stronzi, magari anche tutta l'umanità, tanto siamo 8 miliardi di stronzi ormai, tutti qua coacervati per dedurre, dirizomatizzare, trovare robe, trovare risposte che poi alla fine non trovano manco mai, quindi andiamo veramente per i cieli perché tanto la psicologia ha risolto nulla. Un accrocco di 2 miliardi di correnti che confliggono anche tra di loro e non raggiungono conclusioni certe perché il comportamento di uno è sempre diverso da quello del comportamento dell'altro all'interno di un frame in cui però più o meno tutto uguale, no? E niente, gli altri lì in filosofia pensano pure di fare delle robe mirabolanti, ma alla fine della giornata rimane tutto soggettivismo. L'oggettività se la permette esclusivamente la persona che ha la possibilità di analizzare l'intero cosmo all'interno di un micron, di un neutrone suborbitale, di un altro atomo, perché per il resto non c'è nulla. A parte la filosofia, questa volta sì funzionale perché tende all'oggettività quanto più possibilmente la ottiene, perché si spoglia, si fanno espolizioni di tutto il resto, che è quella propria del nichilismo. L'oggettività ad ogni costo, l'oggettività potente, l'oggettività quasi transostanziale perché esistono anche infiniti e trascendenze laiche. Vedete ad esempio tutti i teoremi matematici, gli infiniti di Cantor, gli infiniti che si accavallano l'uno sopra l'altro, il pi che vola fino a quel che non sappiamo, i multiversi stessi per i quali si può conservare una pretesa di agnosticismo, paradossalmente un agnosticismo scientifico. Per quanto riguarda invece la certezza dell'inesistenza degli dèi è totale. Per concetto di senso è una boutade. Senso cos'è? Essere fini a se stessi all'interno di un paradigma. Puoi fare 2 miliardi, ottenere magari anche di più, di meno di 2 miliardi e il gesto è quello, non è che noi tendiamo ad applaudire eroi, ma tanto sono persone svanite per sempre. Magari entrano a far parte di una storia, ma non è che questo che gli attribuisce senso. Poi se il senso stesso esistesse sarebbe un'altra bella problematica, perché significa, una volta raggiunto il senso, che la tua storia è praticamente conclusa e come tale è prescindibile, non c'è più nient'altro, hai raggiunto un quid, non c'è altro da fare. Tutto quello che farai dopo sarà obsolescente e completamente inutile, anche se avanguardista. Niente se la tira troppo con questa storia degli scopi di vita che tra l'altro non esistono. Tutto quello che facciamo, nel migliore, ma proprio nel migliore, la best delle ipotesi, è un passatempo, una passione. E nella peggiore, una buttata di tempo all'aria o addirittura, come avviene in numerosissime parti del mondo, uno spreco di proprie ed altre vite, un canglore di sofferenza che è difficilmente estirpabile ed è per questo che sono stata da sempre una delle più fervide fan dell'antinatalismo, cioè la gente si lamenta di problematiche dalla mattina alla sera, mentre magari non gode nemmeno a vivere. E le problematiche si risolvono depopolando il pianeta pian piano, man mano. Qui sembra che la gente stia figliando esclusivamente per far continuare l'alone cosmico di capitalismo universale, consuma, produce, ripeti, crepa, figlia così per caso, che ovviamente non è un gesto che attribuisce vita perché si ripete il ciclo dell'insensatezza. Siamo qui per consumare, E la Dimmitra, la gente si tiene viva contro il nostro desiderio, perché ovviamente i morti non pagano questa e quella, anche se sicuramente si troverà un modo per monetizzare anche i morti, e probabilmente che la morte non sarà più il vincolo rotto, insomma, non sarà più una via d'uscita. Ed è per questo il motivo per cui la gente non è propensa all'eutanasia razionale, cosa che invece sarebbe auspicabile. Una persona viene portata qui, contrariamente alla propria volontà, anche pagare per qualsiasi cosa, per ogni tirata d'aria, e una persona dovrebbe avere tutto il diritto di andarsene, perché è come stufarsi di starsi 2 miliardi di ore davanti allo stesso discorso, e a una certa ora via, piglia, se va a chiesa, si è fatto una certa, come si dice. Sono discorsi di un'elementarietà tale che c'è da stupirsi che la gente non li capisca, invece preferiscono tormentarsi con ansie e stronzate varie quando non capiscono che tutto è vanamente vano, vanno invanamente, mettetela così, perché di tutti questi sforzi, di tutte queste percentuali, di tutti questi PIL, di tutti questi indicatori sociali, non rimane nulla. Io sono contenta dal canto mio che la gente si sia svegliata un pochino e abbia iniziato ad abbracciare il nichilismo, quello oggettivo, insomma, quello un pochino depauperato di tutte le stronzate mortaliste che gli sono state messe appresso da tenanze religiose e quant'altro, perché il nichilismo duro e puro non ha niente a che vedere con tutto questo, non ha alcun che di mortale, e sono contenta di essere nel constatare che qualsiasi cosa si faccia, oltre ad arrivare a un termine universale con la morte termica dell'universo, collasso totale del cosmo, non ha alcun senso, anche se si dovesse ripetere, reincarnare qui o altrove. Questo è tutto quello che occorre sapere per campar bene. You can try so hard, get so far, and it doesn't even matter. Ci si risente forse.